sei qua, no? Sì, sì, da ieri pomeriggio verso le 5. Con quella nevicata che c'era. Gran bella nevicata. Siamo riusciti ad arrivare, ma non a tornare a casa, perché dovevamo tornare a casa ieri sera. Avete trovato un buon anima che vi ha ospitato qua a Milano? Sì, spero. Fortunatamente sì. Non che Zari fossi lati, perché siamo andati dai turchi a mangiare a kebab, perché ci hanno rifiutato i cinesi tutti quanti a una certa ora. Ma cazzo, oh, non c'è più una pizzeria. A Milano si sa che è una città assolutamente inospitale, no, e trucida. Cazzo, no, ma non si può. Noi siamo in quattro gatti veramente. Tu che c'è questo eventone qua, ma voi è la prima volta che... Ma aspetta, prima di dove siete? Cuneo Dogliani, Monforte d'Alba Dogliani. Okay. Sì, come si chiama l'azienda agricola? L'azienda agricola Pira, Gian Matteo Pira. Ed è la prima volta che siete a Critical Wine o avete già partecipato a qualche edizione? Sì, la prima edizione che era 2 anni fa, no? Praticamente. Ah, qua, sempre qua. 2 anni fa, sì. Quanto? Scusa, io partino i soci qua mi vengono. Vabbè, non di soli. Beh, ma come sta andando? Benissimo. Quest'anno? No, molto bene, sempre un piacere, perché il contatto più bello veramente è col pubblico appassionato che non ha delle idee già troppo preconcette, che vengono anche, e non si parla neanche di affari, di fare dei lavori, cioè il piacere di fare da dire insieme. Sì. È piacevolissimo, molto bello. Uno spazio di relazioni, insomma. Certo. Direi un pubblico formato più per quello che è il suo gusto, o comunque il gusto che ha imparato a conoscere, a riconoscere, che non per forse delle campagne pubblicitarie di vari tipi. E voi come avete deciso di aderire a questa idea qua? Dove e quando? Sempre, io penso di essere nato già con questa idea qua. Sì. È semplicemente trovare un logo nel quale riconoscerti, sì. E per il resto. Esattamente sì, e poi capire perché, se io non so, mi faccio un lavoro per arrivare a produrre un qualcosa eccetera eccetera, e ho dei margini, come tutti oramai sappiamo, perché insomma in agricoltura il margine del produttore, del contadino, su qualsiasi coltivazione, è ridicolo confronto a quello che poi avviene nella catena che succede poi per la commercializzazione, che secondo me andrebbe accorciata decisamente o comunque mantenuta entro certi livelli. Poi che tutti abbiano, no, io il 10%, tu il 10%, ognuno 10, non che chi è a 10 poi ha l'altro che ne ha il 200%. Ma riuscirà un giorno la Critical Wine a mettere in difficoltà seriamente le corporation agrochimiche e quindi anche quelle del settore vinicolo? Beh, corporation agrochimiche, facciamo dei grandi nomi, attenzione, perché qua ci scontriamo con noi piccoli, abbiamo bisogno di piccole cose, non dei grandi. Bisogna cercare di salvare i piccoli dai grandi, in modo tale che i grandi rimangano tali e i piccoli siano ben distinti, non vengano assorbiti, confusi e persi. Perché poi sarebbero persi decisamente. Visto che è un discorso che si lega a quello della Critical Wine, vuoi fare un pensiero che va alle popolazioni della Val di Susa che in questo momento stanno resistendo all'inizio dei lavori di questo progetto qua, tanto speculativo quanto devastante per l'ambiente, per, certo, il territorio della Val di Susa? Certo. No, io penso solo, non so quante sono, non adesso molto ignorantemente parlando, comunque i tempi previsti per realizzare questi lavori, quanti anni si prevede di terminare tutto questo tunnel infinito? Fino a 2015, 2020. Oh, nel frattempo avranno inventato già il teletrasporto. Quindi che si risolverà pacificamente così, insomma, stiamo eliminando le montagne. Autostrade. Siamo nella modernità, stiamo ancora a bucare le montagne. Qualcosa di diverso si può sperare che si possa trovare. Grazie mille. Figurati, a te.